La caratteristica principale di Carter, fin dall'inizio, noi abbiamo compiuto 60 anni l'anno scorso, quindi in questi 60 anni di storia, è stata di portare il massimo della qualità e ora anche un prodotto assolutamente di lusso, anche se in materiale plastico, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Perché facendo un prodotto con una produzione industriale, noi abbiamo grandi numeri e quindi riusciamo a dare questo rapporto buonissimo tra qualità e prezzo, con un grosso investimento iniziale, perché il nostro grosso sforzo, il nostro grosso rischio sta nell'avere un grosso investimento iniziale, però poi dopo viene ovviamente diluito sul prodotto e al consumatore finale riusciamo a dare un oggetto di grande personalità, fatto da un designer importante, con un'ottima qualità a un prezzo accessibile. Sono comprabili addirittura con 60 euro. Sì, noi abbiamo ad esempio una delle nostre lampade principali, la Take, che vendiamo a 52 euro, abbiamo i vassoi, le ciotole, ma anche la Master, che è l'ultima sedia di Philip Stark, icona ormai già della nostra produzione, che viene venduta in Italia a 130 euro. È una sedia fatta con una tecnologia pazzesca, un'innovazione dietro che ci abbiamo messo 3 anni a fare e firmata da comunque uno dei più famosi e geni del design che è Philip Stark, ha un ottimo prezzo. Grande innovazione tecnologica anche per oggetti che poi magari visti dal profano sembrano, come dire, tra virgolette, facili da fare. Sì, soprattutto negli ultimi 15 anni il nostro proprio intento è su ogni prodotto di avere una grossa sfida tecnologica, che sia dal punto di vista del design, dei materiali, dell'innovazione tecnologica. Cerchiamo di fare, di portare al pubblico sempre qualcosa di nuovo. Ad esempio, negli ultimi 10 anni siamo stati i primi a portare i materiali trasparenti all'interno della casa, con l'apporto del policarbonato che veniva usato in altri settori, l'abbiamo portato nella casa, abbiamo presentato nel 99 la prima sedia trasparente, la Marie, che ad esempio va in vendita a 150 euro, quindi con un prezzo fantastico. Dal punto di vista dell'ecosostenibilità, Cartel, che scelte ha fatto? Beh, Carter sicuramente non può che essere assolutamente sensibile all'ecosostenibilità. Per noi è molto importante, per quanto riguarda le materie plastiche, utilizzare materiale plastica all'origine di prima qualità, di primissima qualità. Utilizzando la primissima qualità, il prodotto è assolutamente buono, ecosostenibile e il 98% del prodotto può essere riciclato, soprattutto in questi nuovi materiali come il policarbonato, sono fantastici. E vorrei aggiungere che molti non sanno che comunque è soprattutto il processo nostro di produzione che è super pulito, perché non ci sono scarti, non ci sono emissioni e tutto il materiale che viene immesso nel macchinario esce poi come sedia. E un'altra cosa importantissima è che i nostri prodotti hanno una vita lunghissima. Quindi non si consumano mai e possono rimanere veramente per una generazione all'interno della casa, anche più. Quanta internazionalità c'è e soprattutto quanta Europa? Guarda, io ti dico, Cartel è orgogliosissima di produrre tutto in Italia, però diciamo che il nostro prodotto è assolutamente globale. Fin dall'inizio Cartel è partita con una grossa percentuale della sua produzione all'estero, noi esportiamo quasi l'80% della nostra produzione all'estero e invece il prodotto viene fatto dal nostro know-how, dalle nostre tecnologie prettamente italiane, ma con l'influsso culturale di tutti i nostri designer che vengono da tutto il mondo e portano assolutamente la loro cultura e la loro creatività internazionale nel prodotto.